Italia in controluce. È il pomeriggio di Radio 24 e in studio è Daniele Biacchessi. Al venerdì, lo sapete, ogni settimana a quest'ora c'è Piera Ceci, do la linea a lei per il nostro focus sul mondo della scuola. Scuola in controluce. Vogliamo dedicare quest'ultima puntata di giugno di Scuola in Controluce a degli studenti molto particolari. Sono spesso lavoratori, hanno tutte le età dai 20 ai 70 anni. Insomma, sono gli studenti delle scuole serali. Una realtà poco conosciuta questa, ma importante perché consente a molti di cambiare lavoro, di ritrovarlo un lavoro, di riqualificarsi. Itis Giorgi, siamo a Milano, 800 studenti di quella che è forse la scuola serale più grande d'Italia. Un ruolo importante anche in un periodo di crisi, come ci racconta la preside Anna Maria Indinimeo. Può avere un ruolo di collegamento, secondo me, col mondo del lavoro, nel senso che noi accogliamo ragazzi o persone adulte che stanno lavorando e vogliono modificare la loro preparazione in maniera tale da inserirsi o in un settore che loro ritengono più adatto oppure per seguire quelle che sono le richieste del mercato. Nello stesso tempo possiamo essere utili alle aziende per riconvertire, aggiornare e formare dei lavoratori. Vorrei che si sfatasse un pochino l'idea che nella scuola ci sono delle cose polverose. Noi abbiamo anche laboratori bellissimi, per esempio abbiamo dei corsi su macchine a controllo numerico, che io non so cosa siano, ma mi dicono che sono estremamente importanti, e poi per esempio abbiamo tutto il settore dell'informatica, per esempio le certificazioni Cisco, che sono molto richieste. Quindi noi possiamo essere in grado con i nostri insegnanti e i nostri laboratori di riconvertire e aggiornare il personale. Quindi vi mettete a disposizione sostanzialmente delle aziende che a questo punto, con un costo anche limitatissimo se non zero, possono riqualificare il proprio personale, è un'ottima possibilità. Sì, bisogna vedere che cosa si intende per costo zero, nel senso che anche loro magari devono mettere in gioco delle risorse umane, devono fare un progetto. Quello che sarebbe interessante vedere sarebbe proprio una collaborazione stretta. Cioè noi possiamo mettere alcune cose, perché per esempio non tutti sanno insegnare, invece gli insegnanti sanno insegnare, quindi possono essere le persone giuste per fare questo lavoro anche con delle persone adulte, perché i docenti del serale sono abituati ad avere un campione eterogeneo che va dai 18 ai 70 anni e quindi sono in grado di trovare le parole giuste per aiutare queste persone a trovare la strada per migliorare, perché in effetti gli istituti serali dovrebbero avere questo scopo, permettere di riprendere gli studi, permettere di cambiare la propria formazione, permettere di ritornare un po' tra i banchi di scuola per rispondere meglio a quelle che sono anche le esigenze del mondo del lavoro. Ecco, lei mi diceva molte aziende si rivolgono a voi per riqualificare il proprio personale, però immagino che a una scuola serale ci siano anche molti altri tipi di studenti. Qual è la vostra utenza fondamentale? È molto varia, abbiamo dai dropout che riprendono a studiare fino alle persone che magari hanno una passione per esempio per l'elettronica piuttosto che per l'informatica o la termotecnica e vogliono completare gli studi. Noi abbiamo molti contatti con le aziende soprattutto per quanto riguarda alcuni corsi specifici che hanno un buon successo. Ecco, ci piacerebbe che ci fossero più persone che magari hanno lasciato il loro lavoro e la loro scuola per andare a lavorare in certi momenti, che avessero voglia di tornare tra i banchi per trovare qualche aiuto, qualche risposta a una vita di lavoro migliore. E le aziende spesso rispondono anche in questo momento difficile. Antonio Migliardi, direttore risorse umane del gruppo Telecom Italia, lo ha intervistato Davide Maria De Luca. Telecom prende una serie di iniziative molto diverse fra loro, le più significative, tra le ultime più significative posso ricordare l'iniziativa dell'Università Online per tutti, noi abbiamo 4.000 colleghi che sono iscritti all'università, con loro ci mettono il tempo, Telecom ci mette il costo. Un'ulteriore iniziativa è stata di recente quella di consentire a donne che operano nei call center di iscriversi per conseguire un diploma di perito in telecomunicazioni che consentisse la successiva riqualificazione in settori tecnici. Abbiamo fatto gli accordi necessari con i sindacati, con il Ministero della Pubblica Istruzione, e consentiamo loro di impiegare il 25% del loro tempo a nostro carico per conseguire questo diploma. Lo scopo è quello di rimediare ad un fenomeno che è sempre più esteso, soprattutto nel nostro settore. La vita dei mestieri si è accorciata per ragioni di evoluzione tecnologica e di mercato, è diventata molto più breve della vita lavorativa, che al contrario si è allungata molto. Quindi le persone debbono costruirsi una second life lavorativa. Noi incoraggiamo la decisione di cambiare, la decisione di ricostruirsi un nuovo corredo di competenze e di contribuire in modo diverso all'impresa. Telecom in queste iniziative mette anche del denaro, cioè sono investimenti per Telecom? Assolutamente sì, sia quella dell'università che costa un po' meno di 3 milioni all'anno, sia quella dei diplomi, sono tutte a carico di Telecom. Poi esistono ovviamente le normali iniziative formative per le quali anche Telecom fruisce parzialmente di finanziamenti. E un gruppo di 15 lavoratrici Telecom ha frequentato proprio l'ITIS Giorgi di Milano, di cui abbiamo sentito poco fa la preside. Ha seguito il gruppo il professor Lino Epis, che le ha portate proprio in questi giorni alla maturità. Adesso hanno fatto le prime tre prove, i risultati mi sembrano ottimi, perché queste 15 hanno delle valutazioni mediamente addirittura superiori ai nostri interni. E com'è andata? Insomma, queste persone lavoravano tutto il giorno, poi venivano lì alla sera, del resto è così che allora, si fa quando si frequenta un serale. Tenga presente che noi siamo in una scuola serale, per cui quasi tutte le persone che vengono da noi lavorano. Anzi, loro diciamo che sono state da questo punto di vista anche abbastanza agevolate, perché la Telecom da questo punto di vista ha fatto uno sforzo portandoli, riducendoli l'orario di lavoro, quindi facendoli finire alle 2 e facendoli venire a scuola dopo. Per loro abbiamo organizzato un corso che non era serale ma era pomeridiano, il loro orario di lezione era dalle 3 alle 6 o dalle 4 alle 7 sostanzialmente. È stato difficile insegnare le questioni tecniche a chi era sostanzialmente digiuna? All'inizio, siccome appunto quasi tutti avevano diplomi non orientati da un punto di vista tecnico, all'inizio sì, perché c'è stato un lavoro, allora non abbiamo potuto fare un corso regolare, proprio perché ci mancavano le ore e le istituzioni non ci hanno dato le ore necessarie per fare una classe, quindi abbiamo, oltretutto essendo diplomate, loro su materie tipo italiano, storia, piuttosto che inglese o che cosa, vantavano un credito scolastico, per cui non hanno frequentato. Noi abbiamo fatto un insegnamento incentrato sulle materie tecniche. E allora sentiamo le due studentesse lavoratrici della Telecom, Elena Gualtieri, 33 anni, Chiara Oang, 34 anni. In questi giorni non si separano un momento, stanno infatti ripassando per prepararsi all'orale della maturità. Ma noi lavoriamo all'interno di Telecom da 10 anni per il 191. Quindi la parte customer. Siamo al call center aziendale di Telecom, sì. E come vi è venuto in mente, con un lavoro già fra le mani, di rimettervi a studiare e di fare tutta questa faticaccia? Mi annoiavo un po', onestamente. Per cui si voleva schiodare dal call center? Non è una questione di schiodarsi, non si lavora male al call center, però è stata una cosa come per dire, perché no, proviamoci. Rimettiamoci in gioco, vediamo quello che si può fare. Io tra l'altro sono anche laureata, per cui... Chiara, lei perché ha deciso di rimettersi a studiare invece? Innanzitutto anche per una sfida per se stesse. Come diceva Elena, il lavoro che facciamo ci piace, non era per fuggire al lavoro che facciamo, ma semplicemente per cogliere un'opportunità in più che l'azienda ci ha offerto in quel momento. Però è dura, no? Perché frequentare comunque subito dopo il lavoro... È stato un anno molto difficile perché abbiamo dovuto conciliare la vita familiare, noi siamo una classe adesso di 16 ragazze, qualcuna con anche dei bambini piccoli, quindi conciliare il lavoro, conciliare la famiglia, la scuola e ovviamente lo studio serale, perché tornando da scuola bisognava lo stesso studiare. Però ce l'avete fatta, manca soltanto l'orale? Esatto, infatti non diciamo ancora niente per scaramanzia, perché ci manca ancora l'orale, però nel giro di qualche giorno concluderemo tutta questa esperienza. Vi do un'anteprima, il vostro professore mi ha detto che gli iscritti sono andati benissimo, siete state bravissime, molto meglio insomma degli altri. Ci rincuora, anche perché ci siamo impegnate tutto l'anno, non solo per avere un buon risultato dagli iscritti, ma anche per riuscire a prendere qualcosa da questa scuola, che in fin dei conti è durata solo un anno ma ha condensato tre anni di conoscenze tecniche che a noi non avevamo, quindi da zero i nostri professori ci hanno portato a un livello paragonabile a ragazzi che magari hanno fatto proprio gli anni regolari. Che cosa sognate alla fine di questo benedetto orale, quindi archiviata la maturità? Relativamente parlando, io spero in un full time, perché attualmente sono in un part time, sono in una situazione di part time e spero nel passaggio a tempo pieno. Perché però, insomma, qualche soldino in più non ci starebbe male. Diciamo così, va bene. Parlando di è una questione proprio di sicurezza, sì. E Elena, lei invece che cosa spera? Qual è la sua speranza finita questa maturità, lavorativamente parlando? Lo so, anch'io effettivamente qualche soldino in più non mi farebbe tanto male e non lo so, magari un riconoscimento in più da parte della nostra azienda sicuramente. Era Italia in Controluce, torniamo lunedì alle 13.30 su Radio 24. Infatti da lunedì e per tutto il mese di luglio, sospesa la programmazione di prima edizione, non andrà in onda la pillola di Italia in Controluce alle 6.30 e il nostro programma sarà ascoltato in un'unica edizione, lunga, a quest'ora. Italia in Controluce.